Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Ci sono momenti speciali nella vita di una persona o di un gruppo di persone e questo è sicuramente uno di questi, perché è sabato 27 ottobre 2018, ma è anche un po' domenica 28 ottobre 2018. Sono le 3:23 del mattino, ma sono anche le 2:23 del mattino perché è appena cambiato l'orario. Quindi stiamo vivendo... Cioè, biologicamente sentiamo che la stanchezza delle 3:23, ma però non si dice. Ti sto dicendo che sei in una sorta di dimensione parallela in cui stai vivendo contemporaneamente due giorni, perché è un po' sabato ma anche un po' domenica, e addirittura due orari, perché potrebbero essere le 3:23 o anche le 2:23. Ha ripreso bene... No, volevo dare. Non abbiamo controllato. Ci aveva detto che non. No, volevo dare enfasi. Volevo dare. Ma si sente tanto che parliamo, no? Volevo dare enfasi. Volevo dare enfasi a un momento banale. Comunque, ecco, è giusto per far finta di niente. Io volevo dire che in realtà, praticamente stanotte, dalle 2, cioè quando sono le 2 tornano a essere le 2, no, quando sono le 3 diventano le 2, quindi vuol dire che in quell'arco di tempo lì anche Nadia ha bevuto questa sera, sì. Praticamente in quell'ora lì, no, vi spiego, in quell'ora lì praticamente potete fare quello che volete, perché è come se non fosse mai avvenuto. Esatto, perché il mondo lo cancella. Ecco perché ha messo il limbo rock. Il mondo lo cancella. E infatti io forse c'è anche un film. Ho fatto qualcosa che poi c'è anche un film che si basa su questi famosi 60 minuti di limbo, e che non ricordo in questo momento, però che ha fatto anche Battantuono? No, albanese. No, secondo me è straniero. C'è anche una canzone, sì, che parla di questo, però non ho idea di quale canzone non era sia. Che... Ce l'ho io. Na na na na na na na. Limbo rock. Na na na na na na na. Dai, na na na na na na. Sì, ma non parla dell'ora legale, no. Mi piace dirvelo, no. Ma no, il limbo, sì. Nel limbo era quello. Però Nadia, lei è abituata a... Esatto. Ma come movimento veloce di lingua che fai? E proprio per questo, dando il benvenuto ai miei compagni di viaggio Nadia e Mr. Dave, volevo farvi un po'... Dove andiamo? Com'è il viaggio? No, si di viaggio, in questo viaggio... No, non farmi ricordare che davvero ci sarà un viaggio. No, in questo viaggio della comunicazione e del nulla. E volevo farvi questa grande domanda che un po' sta sconvolgendo le coscienze di tutte le persone. Cioè, se voi vi sentite più la Nadia e il Mr. Dave delle 3:25 o la Nadia e il Mr. Dave delle 2:25? Una bella domanda questa. Io... Ma di quale anno? 2018. Ah, perché 2018? Furca. Ma rispondi te, facciamo così. No, e prima l'ho fatta io. Allora, io sento il mio bioritmo biologico che mi sta chiaramente mandando dei segnali di fame, per cui presumo che siano le 3:25. Cioè, non ho mai fatto caso che la Nadia c'è il naso a punta. È bello che tu stia puntualizzando. Scusatemi. Come, ma oggi non mi hai avuto tutti? Ma non l'ho notato. No, perché scusatemi. Ma perché? Ti spiego subito. Perché ho pensato, no, perché altro... mi sta bucando il microfono. Ho detto cazzo, no. Ho detto cazzo. Porco giù. Non dovevo. Scusate. Adesso il nostro webmaster si arrabbia. Tra l'altro, dal nulla, capito? Cioè, è un po' completamente come. È un po' quasi come quel benvenuto che hai dato alla nostra nuova grafica. No, non diciamolo. Bellissimo. E questo così, questo era giusto per ricambiarti con la tua stessa. E poi moneta. dicono che Studio Aperto non abbia ragione quando dice che il nuovo orario, il cambio d'orario, possa avere effetti negativi sulla mensa e la salute delle persone. Anche perché Studio Aperto, se non desse quei consigli che dà d'estate, penso che tutta la popolazione over 60 sarebbe morta. Pensavo che mi tirassi in ballo Emilio quando dice figure di merda. Ah, giusto. D'altro. Che ci stava con quello che dov'è adesso in tutto questo? È in giro tra prigioni, probabilmente. No, sempre pensando. Ah, in territorio franco? No, al casino. No. Sì. Ma non l'hanno. Emilio? Non l'hanno indagato. Ma se parlassimo di cose che possono interessare ai nostri ascoltatori? Giusto. No, non è così, era una curiosità. C'è stato il calo dell'indice glicemico. Esatto. glicemico. Sì. Un calo di zuccheri c'è esatto, stato. Esatto. E... allora, io direi che se non abbiamo niente di cui parlare, possiamo anche salutare gli amici. No, basta. Più che altro. Ah, perché voi avete ancora l'introduzione? No, perché... no, no, vogliamo dare contenuti, vogliamo dare contenuti. Non volevo puntualizzare. Esatto, esatto. Ah, volevi parlare di quel famoso exploit? No, no. Ah, non era questo il contenuto. Exploit lo tieni per te. Innanzitutto. Innanzitutto. Niente, allora a questo punto, ma ti sei preparato, Nick, il perché dobbiamo subire queste tutti gli anni, due volte all'anno, subire questo assurdo stress che ci cambia i ritmi circadiani e che dobbiamo fare questo, questo. Ma sai cos'è? Che beh, noi non allora, siamo preparati. Intanto ti dico che noi. Perché è il motivo? È perché dobbiamo risparmiare la corrente elettrica perché non accendiamo la luce. Intanto ti dico che a noi non cambia assolutamente nulla. Nel senso che quando c'è da portare avanti un'ora terminiamo alle 4:30 e quando c'è da portare indietro di un'ora terminiamo alle 3:30 del nuovo orario. Quindi noi non siamo assolutamente toccati da questo. E poi un'altra cosa, però noi non sentiamo questo problema perché siamo giovani. Questa cosa colpisce più le persone come te. Ha voluto puntualizzare. Ti do una grande notizia. Giusto per mettere il naso nella piaga. Ti do una grande notizia. Non è sicuro, ma è se ne sta parlando. Potrebbe essere l'ultima volta che succede, perché l'UE ha chiesto appunto una mozione per cui non si cambi più. Sì, non l'UE, l'Unione Europea, non si cambi più l'ora. Quindi rimanga legale o solare? Bravo, solare, esatto, bravo. Io sono sempre solare. Rimanga l'ora solare. Il motivo per cui si cambia l'ora, penso per allineare meridiani, quelle cose lì, no? Può essere per allineare i fusi orari del mondo. Bacata. No, esatto. Non è per allineare, era per giusto per la luce. Risparmio, esatto. Ah, ok, per la luce. E ci sono stati 3 anni durante il franchismo in cui la Spagna ha deciso di non aderire. Ah, e quindi hanno mantenuto l'orario. E quindi l'orario. All'interno dell'Unione Europea c'erano 2 fusi orari. È stato l'unico volevo caso. Far sentire. Vedi? Vedi? Giusto perché non mi interessa quello che stai dicendo. Stai mettendo un preservativo al microfono. Hai svelato. Scusa, vedi, no, perché dobbiamo riprendere noi questa siamo, cosa? Siamo persone di cultura in tutto questo. Volevo far sentire agli amici ascoltatori da casa, come direbbe Sandrino, che cos'è questo rumore? Lo sai che viene anche ripreso in questo momento. Potremmo fare un quiz uditivo dando rumori. Sì, un rumore a caso. Io sono un rumorologo anche. Sì, perché è molto difficile essere rumoristi e rumorologi. No, beh, quello è una professione. Certo, ma c'è gente veramente brava. Tra l'altro ti invito, forse magari te l'ho già detto, a guardarti un video su YouTube. Già avviato? Quale? Non sai neanche quale? Ho già fatto. Ah, ok. Cioè, un video già l'avrai visto, no? Allora, intanto ti dico che esatto. Su YouTube ci sono migliaia. Tra l'altro ti dico che quel video l'ha messo Alex Angioletti, perché sai che Alex Angioletti ha video per ogni cosa. E in realtà Alex Angioletti è il fondatore di YouTube. Esatto, è il fondatore di YouTube. No, tornando a noi, tornando ai rumori. Salutiamo Alex Angioletti. Che è in console. Anzi, non solo salutiamolo, ma direi incorriamoci nella console. E sentiamo cosa sta suonando. Oh, grandi classici. Culture Club. Tra l'altro vorrei farvi notare la grazia e l'eleganza del ballerino con la camicia a righe bianche e nere dietro il palo. Oh, è quasi a tempo. Sì, è quasi a tempo della prossima canzone. O di quella precedente. Ma voi sempre a spettacolare. No, no, ma perché è un caso. È un caso umano. No, è molto bravo. È molto bravo, è un caso umano però. Perché guarda adesso il bacino. Guarda la mossa del bacino. Pensavo il bacino che stava dando all'anima. Non alla mossa del bacino. Poi tra l'altro ho visto un altro grande esemplare di personaggio. È tornato il marsupio nel 2018. Camicia, golfino, proprio golfino lana invernale e marsupio. Grande ritorno del marsupio. L'ho sostenuto da Fazzi in pratica. Esatto. Tornando ai rumoristi, dicevo, video su YouTube, scuola di polizia, non so se è presente, sì. Ecco, che c'era Tackleberry, si chiamava? Il nero alto. Bravo. Bravo. L'hanno preso a fare l'attore di scuola polizia non solo perché è un attore, ma perché è un rumorista fenomenale. È andato in un... alla faccia del beatbox. Esatto. È andato in un salotto alla David Letterman e così via. ha fatto uno spettacolo da paura. Ti consiglio di andare a vedere. Ah, quindi lo faceva realmente? Lo fa realmente. Ah, io pensavo fosse una finzione cinematografica. Non era solo attore, ma anche realmente rumorista. Veramente bravissimo. Niente. Buono a sapersi. Questa pillola in più che volevo, darvi e donarvi. E, detto questo, visto che vedo la nostra Nadia affamata, direi che è anche il momento di parlare del grande appuntamento della prossima settimana, che non è il mio compleanno, perché infatti non è la prossima settimana, ma è Halloween. Halloween, la festa di tutti non quelli che hanno il mal di testa. La festa di Halloween. Giusto, non cominciare a chiedermi da dove nasce, perché già mi mette in difficoltà. E saremo, già l'abbiamo accennato, ma saremo acconciati per pagana festa pagana che arriva dai Celti, in pratica. Esatto. Dai, insomma. Dicevo, saremo acconciati per le migliori occasioni. L'anno scorso, conciati per le feste. L'anno scorso eravate veramente terribili. Talmente terribili e brutti che per fortuna la gente non ci riconosce sulle locandine. Io ti dirò che ho avuto così tanto tempo di preparare questo Halloween che penso che... Ti è arrivato in tempo il costume quest'anno? L'anno scorso ti ricordi che Amazon aveva fatto Io penso che riutilizzerò il vecchio costume dell'anno scorso. Ci ho veramente pensato. Non ci ho veramente pensato. Ma volevo approfittare di questo mezzo per rifacciamo una cosa l'anno scorso. Perché devo andare a prenderne? Avevano spaccato però. No, avevo sofferto. Come un maiale. Però vanno gettate quelle. No, l'avevamo gettato. E ho detto rifacciamo la stessa cosa, nel senso che devo andare a ricomprarle. Volete dire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando? No, manteniamo la suspense. No. Però io non voglio soffrire come lo scorso Halloween. L'indice di gradimento. E non voglio soffrire come lo scorso Halloween. Poi in bagno così. Vabbè, vedremo. Ammetterlo, è stato doloroso, vero? Esatto. E questo, l'importante darvi... è che ti lavi le mani. Ma guarda che Aulin non è Guttalax. No, rimane Aulin. Questo per darvi il nostro appuntamento 31 ottobre, come saprete. E sentivo parlare dalla direzione artistica del locale che trasformeremo il convento in un cimitero, da quanto sentivo. Terrificante. Facciamo prima. Sì. Cimitero terrificante, quindi vogliamo così darvi questo spunto per venire anche solo a curiosare su come saremo in grado di cambiare completamente e scena. Nadia farà le pompe funebri. Scusa, me le tirate fuori di bocca questo. Cioè, me le tirate fuori di bocca. Esatto. Che è una cosa che dice spesso anche. Ma pensa a te. Dovremmo dire a Mr. David di fare la censura, perché vabbè. Andiamo. È una censura, ma che guarda, siete fortunati perché in questo orario notturno. Anche perché stanotte ho dovuto rispondere a tante provocazioni e battute che arrivo a quest'ora che mi vengono in mente solo cose molto cattive da dire, e quindi mi trattengo e pensa e faccio meditazione. Giusto. Cattive. E voglio darti voglio essere il tuo sostegno morale, come mi piace sempre essere, e penso che dovrei farlo per un'ora in più. Infatti, per questa sera dovrei replicare per un'ora in più. E infatti sarà dura. Scusate. Ma è arrivato si è trasmesso nell'etere. Sì. Eterologo. Esatto, eterologo. E niente, quindi salutiamo, abbiamo gli amici a casa. Dato gli appuntamenti, salutiamo gli amici a casa, anche perché noi dobbiamo andare a salutare i nostri. In tutto questo, perché Luca è aggrinfiato alla bionda da 25 minuti più o meno? Sono sempre lì. Vabbè. Luca è il nostro capo andremo della a scoprirlo. Sicurezza. Ma veramente stanno chiacchierando della qualunque da 20 minuti a questa parte. No, stanno chiaramente parlando di un discorso musicale, penso. Quindi alle 3:36, 2:36 oppure anche alle 15. Alle qualcosa e 36. 15:24, esatto. Piuttosto che, perché sappiamo che o no. Secondo me può essere. Va bene. Salutiamo con fare festoso gli amici a casa. Salutiamo Sandrino, che è in Grecia, ovviamente, come già saprete e avrete ovviamente intuito. E detto questo, Luca continua a chiacchierare con la bionda e andremo a capire tra pochissimo che cosa si stanno dicendo di così interessante. Di così interessante. Noi vi diamo l'appuntamento ad Halloween 31 ottobre, come sempre, con Vento di Nonato. E poi un altro lungo, lungo weekend, come sempre. Venerdì doc, sabato dinner and dance, domenica per il cinema italiana. Grazie mille a tutti. Buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio. Dipende quando ci ascolterete. Un saluto festoso a tutti. Ciao. Saluti anche da me. Ciao.